Mi spiace di dovervi rattristare subito dopo pranzo, ma non riesco a non parlarvi del mio amico Sergio Spazzavi. Forse ricorderete di avermelo sentito nominare domenica scorsa. Quando l'ho fatto speravo ancora di poterlo rivedere a tempi abbastanza brevi, perché le sue complicate vicende giudiziarie, anzi, perché la scandalosa persecuzione cui era sottoposto da parte dell'autorità giudiziaria stava volgendo alla fine. Invece era già morto, in esilio, povero, lontano dai suoi, e senza che gli fosse stata concessa l'unica vera soddisfazione a cui aspirava, quella di poter dire apertamente la sua sull'immane casino in cui ci siamo tutti cacciati. Era un uomo straordinario. Univa una grandissima generosità e disponibilità verso tutti, una capacità davvero rara di mantenersi coerente alle sue idee, alle sue scelte di fondo. In realtà questa esigenza di coerenza aveva sacrificato praticamente tutto. Per coerenza non aveva nemmeno cercato uno dei tanti possibili accomodamenti in cui in questi anni di pentitismo, dissociazione, semidissociazione, semipentitismo sono divenuti praticamente tutti, ed era restato solo nella sua ostinazione a difendere le cause in cui credeva, che poi era il rifiuto dello stato di cose presenti in nome del diritto dovere di difendere in ogni modo gli oppressi e i diseredati. Era una cosa, è una vecchia abitudine per lui, aveva cominciato negli anni 50 facendo sua la causa di quanti rifiutavano in Francia la guerra d'Algeria, ricordate, e ha continuato fino a oggi. E forse avrete seguito la trasmissione che vi hanno dedicato qui a Radio Popolare mercoledì scorso e avrete letto le notizie che sono apparse un po' avaramente sui principali quotidiani. Ecco, se avete seguito quella trasmissione e avete letto quelle notizie, quegli articoli, forse non vi sarà sfuggita una contraddizione piccola ma significativa. Non tutti, ma un paio di quotidiani, riferendo della sua scomparsa, si sono permessi una piccola falsificazione, e non mi riferisco ai giudizi politici che sono sempre leciti, soprattutto quando si fondano su sia pur discutibili sentenze di tribunale, per cui chi ha difeso come avvocato certi appartenenti alle Brigate Rosse può essere fatto passare fino nei titoli come appartenente alle Brigate Rosse lui. No, questo è fatale. Io mi riferisco a una singola falsificazione di fatto che non a caso appare proprio su Unità e su Repubblica, i giornali che in vario modo danno o davano voce a quella sinistra per bene con cui Spazzavi è sempre stato in una frizione piuttosto accesa, diciamo. Entrambi i sullodati quotidiani, nei loro servizi del 25 gennaio, scrivevano che Sergio si era rifugiato in Francia, fin qua, e lavorava regolarmente e manteneva contatti con gli altri profughi politici italiani nel paese d'Oltralpe. Questa Repubblica. Unità, che lavora più per autoschediasmo, sente il bisogno di precisare che in Francia si era messo a svolgere attività legale senza figurare in prima persona presso un autorevole studio. E siccome gli autorevoli studi si trovano nelle città autorevoli, nel titolo il quotidiano fondato da Antonio Gramsci fa morire Sergio Spazzavi a Parigi. Tutto qui. Ora, se avete seguito la trasmissione di cui sopra, saprete anche voi che la sede d'esilio del nostro amico non era da tempo Parigi, ma prima era Atene e poi era un paesino nelle vicinanze delle foci del Rodano, che chi lo conosceva icasticamente definito in quell'occasione come il buco del culo del mondo, dove viveva in una sorta di ascetica sobrietà che esteriormente si distingueva pochissimo dalla miseria. Non ci vuol molto per capire che ad Atene, alle foci del Rodano, era finito proprio per non avere a che fare con quegli altri profughi politici italiani le cui scelte quali più quali meno non condivideva. E quanto a lavorare in un autorevole studio legale o altrove non è vero per niente. Anzi, il grande cruccio di questi suoi ultimi anni, chiaramente espresso nella lettera aperta di cui avrete sentito parlare, quella mandata agli organi della sinistra nel 92 e mai pubblicata da nessuno, ne abbiamo parlato solo qua noi alla radio, il suo grande cruccio era appunto quello di non poter lavorare e di dover dipendere dai suoi familiari. Per il resto le informazioni pubblicate erano abbastanza corrette, di una correttezza quasi generosa per un uomo che, generosissimo lui, in vita non è stato trattato con generosità da molti. Ma allora perché quella piccola falsificazione? Beh, è ovvio, no? Chi vive in una grande città, chi ha frequentazioni sociali, chi svolge regolarmente il lavoro che ha svolto per tutta la vita, sia pure senza figurare in prima persona, ha poco da lamentarsi. Non è come se vivesse isolato in capo al mondo, solo, malato, in condizioni materiali che stroncherebbero un diciottenne. E se questa situazione uno se l'ha assunta volontariamente per coerenza, perché solo nella coerenza più rigorosa ha creduto di poter dare un senso alla sua vita, negandogli quella situazione, si nega, senza prendersi nemmeno il disturbo di farlo esplicitamente, la sua coerenza. Ci si libera dalla cattiva coscienza di aver contribuito con le proprie contraddizioni e omissioni di averlo fatto finire laggiù. Perché è faticoso e difficile, per chi ha un forte senso dei valori collettivi e sociali e un carattere indipendente, vivere in modo da dare alla propria vita un senso e una dignità. Ma è facilissimo per chi di quei valori non se ne frega niente e preferisce comunque dipendere da qualcuno, da qualcosa, negargli proprio quella faticosa conquista, magari a prezzo di una piccola imprecisione di cronaca, di un piccolo falso da nulla. Ma che tristezza, amici, che tristezza quando le piccolezze e le meschinerie di uomini servili si accaniscono contro chi non si può più difendere.